Letture di Radio 24. Con l'arrivo di Pisapia sparisce l'ordinanza della Moratti che prevedeva sanzioni per chi imbratta i muri della città e ora i graffitari si scatenano. Adesso attaccano di giorno palazzi, monumenti e cavalcavia. Gli invisibili hanno calato la maschera, non si nascondono. Da quando è decaduta l'ordinanza antigraffiti, i writer sono più spregiudicati, si sentono impuniti. L'analisi dei comitati di quartiere segue l'impressione raccolta nelle strade dai vigili del nucleo di tutela del decoro urbano. C'è una recrudescenza degli atti di vandalismo e dunque di firme, sgorbi, assalti creativi, esplosioni artistiche abusive. Un ragazzo egiziano residente a Corsico è stato bloccato venerdì pomeriggio mentre bombardava di vernice la centralissima loggia dei mercanti e veniva filmato con l'iPhone da un'amica. Altri due minorenni sono stati denunciati ieri l'altro in via Pallanza. Gli agenti hanno recuperato pure 8 lattine spray. Un gruppo di graffitari, infine, è stato avvistato alle 19 di sabato scorso fuori dalla stazione di Lambrate, ma è riuscito a scappare. Alla prossima! L'ordinanza contro i writer è scomparsa assieme al pacchetto sicurezza del governo all'inizio di aprile, 3 mesi fa, tagliata dalla sentenza della Consulta che ha tolto i superpoteri ai sindaci sceriffo. La leggina firmata da Letizia Moratti prevedeva, oltre alla denuncia penale, articolo 639 del codice, e al sequestro del materiale, anche una sanzione da 450 euro. Quest'ultimo deterrente ora è caduto. Abbiamo notato una netta controtendenza nell'atteggiamento dei graffitari, osserva Fabiola Minoletti, presidente del comitato Abruzzi Piccinni, uno dei gruppi di cittadini più impegnati nella lotta ai vandalismi. Il fatto che colpiscano in pieno giorno è un segnale allarmante. Non vorremmo sprofondare in una nuova e più pesante stagione di degrado urbano. Le sigle dei writer, o tag, le famiglie, o crew, gli ultimi avvistamenti e gli assalti di gruppi più o meno organizzati sono stati raccolti e catalogati proprio dal Comitato Abruzzi Piccinni su una pagina dedicata di Google Maps. Noi non discutiamo se i graffiti siano o meno una forma d'arte, se siano da promuovere o da censurare, conclude Minoletti. In ogni caso, tuttavia, non devono essere i cittadini a pagarne i danni. In 5 anni, a partire dal 2006, Palazzo Marino ha investito oltre 35 milioni di euro negli interventi di pulizia e nelle campagne di sensibilizzazione I Love Milan. Altri tempi. Il colpo di spugna si è fermato, i soldi sono finiti. Già nell'ultimo anno della giunta Moratti non c'erano più risorse a bilancio, ammette Fabrizio De Pasquale, ex consigliere PDL e presidente dell'Associazione Nazionale Antigraffiti. Non basta, perché l'AMSA non può più neppure offrire ai cittadini il servizio di spazzolatura gratuita delle facciate. L'offerta si è incagliata nel febbraio 2010 su una sentenza del TAR che ordinava di rispettare le regole della concorrenza. Tradotto, il comune non poteva affidare l'incarico direttamente all'AMSA, doveva aprire una gara tra gli operatori del settore. E la gara? È passato 1 anno e mezzo e non è ancora stata pubblicata. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Armando Stella, l'ordinanza anti-graffittari non c'è più e i writer colpiscono di giorno, dal Corriere della Sera del 19 luglio. Letture di Radio 24. Il vecchio curriculum non basta più. Un'indagine del Guardian rivela che per trovare lavoro, blog e social network sono altrettanto importanti. Ma in Italia il canale di ricerca privilegiato rimane sempre il passaparola. Avete mai pensato che gli argomenti trattati sul vostro blog possono salvarvi dalla disoccupazione? Che ricontattare un vecchio amico dell'università nel frattempo lanciato nella carriera può aprirvi un nuovo futuro professionale? Che perfino andare in palestra può servire a darvi sicurezza più delle vostre competenze? Avviso ai neolaureati, ma anche ai disoccupati di vecchio conio. Il tradizionale curriculum non serve più. O almeno non basta. Il nuovo decalogo per chi è a caccia di lavoro arriva, e da dove se no? Dall'Inghilterra. Il solitamente compassato Guardian ha parlato con esperti del settore e ha setacciato la rete scovando metodi creativi per dare una chance a chi cerca un posto. E con l'arma dell'ironia suggerisce come vendersi al meglio, abbinando talento personale e spudoratezza. A chi poi del vecchio curriculum proprio non può farne a meno, suggerisce categoricamente arruffianalo, a partire dalla forma, giocando con i caratteri e con i colori a seconda dell'azienda a cui ti vuoi rivolgere. L'importante, è il consiglio che arriva da Londra, è essere nella rete giusta, perché più che la qualità delle nostre competenze, conta chi le conosce. Meglio vendersi bene nel proprio ambiente con un blog a tema, dunque. E basta con i chili di troppo accumulati durante le lunghe soste in biblioteca. Meglio presentarsi a un colloquio di lavoro dopo una seduta in palestra. Davvero dunque il vecchio curriculum è passato di moda? E quando conviene bluffare, fino a che punto si può spingere l'arruffianamento dei propri dati? Paolo Citterio, presidente dell'Associazione Direttori del Personale, frena. I bluff durano poco, dice. Quello che serve è un po' di maestria per evidenziare le proprie caratteristiche in funzione di ciò che sta a cuore alle aziende. Ad esempio, bisogna sapere che i datori di lavoro puntano sempre più sulla rapidità dei candidati. Il voto finale conta poco. L'importante è essersi laureato in tempi debiti. E poi, certo, il futuro è internet. L'importante è essere sui siti specializzati. Da Job Rapido a Job Advisor, da Monster a LinkedIn. A dirlo è anche un colosso americano della consulenza di risorse umane, la Kelly Services. 33 candidati su 100, è il verdetto di una ricerca in 30 paesi, cercano lavoro attraverso i social network. E in Italia? Da noi la percentuale scende al 18%. E d'altra parte, solo LinkedIn ha nel nostro paese una comunità di 1,7 milioni di iscritti, anche se siamo ancora indietro rispetto a Germania, Francia e Gran Bretagna. La rete, poi, può diventare anche un boomerang. Non far capire su internet quanto odi la tua ex è il consiglio che arriva da Londra, anche perché magari possono assumere lei. Occhio dunque ai pareri espressi sui social network. I più pericolosi, secondo un focus group su 110 direttori del personale di GDP, sono i commenti di discriminazione razziale e gli insulti nei confronti dei precedenti datori di lavoro. E il 20% dei direttori del personale, ammette Citterio, cerca informazioni sui social network. Internet a parte, in Italia il principale canale di ricerca di lavoro resta il passaparola. È determinante nel 25% dei casi. E passaparola, per lo più, vuol dire rete di conoscenze personali. È ancora così, anche se sempre meno, ammette Andrea Cammelli, direttore del consorzio universitario di Alma Laurea, che ai giovani laureati consiglia di restare in contatto, di formare un network. E sfata il vecchio luogo comune della flessibilità senza limite. Ai ragazzi dice: accettate lavori a tempo e poco qualificati al massimo per un anno e mezzo. Infine, la passione per l'azienda. Gli inglesi consigliano addirittura di appostarsi davanti al luogo di lavoro per studiare abitudini e vestiti dei futuri colleghi. È così? L'aspetto motivazionale è sempre più importante, dice Giovanni Buttitta, direttore delle relazioni esterne della società Terna. Ma è meglio evitare finzioni grottesche, perché a selezionare i candidati ci sono degli psicologi e se ne accorgono subito. Quanto al look, basta non esagerare ed evitare di presentarsi ai colloqui in pantaloncini. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Tiziana Testa, blog Amici e Palestra battono il curriculum. Il lavoro si trova così, dalla Repubblica del 19 luglio. Per diverse settimane, giornali e TV non hanno parlato d'altro che del batterio E. coli. Poi, il silenzio totale. Problema risolto? Non proprio, a quanto pare. Colpevole rintracciato, mistero risolto. Acqua passata. Così sembrerebbe a giudicare dalla sparizione dal radar dei media della vicenda del batterio killer, il raro ceppo di Escherichia coli responsabile a oggi di una cinquantina di morti e di 4.000 infezioni gravi in Germania. La settimana scorsa un rapporto dell'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, ha indicato il probabile colpevole: una partita di semi di fieno greco proveniente dall'Egitto. L'Unione Europea ha bandito fino a fine ottobre l'importazione e ordinato il ritiro di quelli già in commercio. Caso risolto? Alcuni esperti non lo pensano affatto. Nel ricostruire gli anelli della catena che avrebbe portato il temibile Escherichia coli sierotipo 0104H4 nel piatto di ignari consumatori, la Task Force EFSA ha solo ragionato sulla carta. In pratica, in base al principio della rintracciabilità, si è cercato a ritroso il possibile legame tra le persone infettate in Germania nella zona di Amburgo e quelle colpite in modo indipendente nei pressi di Bordeaux in Francia. Il link sospetto si è rivelato appunto il lotto numero 48088 di semi di fieno greco spedito via nave in Germania dall'Egitto nel 2009 e distribuito da un importatore tedesco a varie aziende di paesi europei, tra cui la Gärtnerhof della Bassa Sassonia, indicata dopo la soluzione dei cetrioli spagnoli come origine del contagio, e una ditta inglese che avrebbe confezionato e fornito a sua volta i semi al centro di giardinaggio francese all'origine dell'epidemia d'Oltralpe. Un giro tortuoso e molti dubbi. Gli stessi autori del rapporto, pur affermando che nella loro ipotesi la contaminazione ci deve essere stata prima dell'arrivo dei semi in Germania, dichiarano che rimane una questione aperta dove sia esattamente avvenuta. Anche perché il batterio incriminato finora non è mai stato trovato né nelle analisi fatte in Germania né in Egitto. Altri elementi non tornano. Il lotto incriminato è costituito da 15 tonnellate di semi. Solo 75 kg sono andati a finire nell'azienda della Bassa Sassonia, mentre l'origine dell'epidemia in Francia sarebbe un unico pacchetto da 50 grammi acquistato per produrre in casa germogli consumati a una festa. Perché solo una quantità così modesta ha provocato l'epidemia? Suona molto strano, osserva Antonello Paparella, docente di microbiologia degli alimenti all'Università di Teramo. Anche se ci possono essere motivi che lo spiegano. Secondo Gaia Scavia, epidemiologa dell'Istituto Superiore di Sanità e tra gli autori del rapporto EFSA, è verosimile che i semi non siano neppure arrivati al consumo umano o, se ci sono arrivati, che siano stati trattati con procedimenti che ne hanno distrutto la carica batterica, tradotto in alimenti cotti o pastorizzati. Ma c'è dell'altro. Nell'ipotesi EFSA, dice Paparella, dato che i semi sono del 2009, il batterio sarebbe rimasto vitale per 2 anni, mentre la letteratura scientifica indica che sopravvive al massimo alcuni mesi. Come si spiega? E dove sono ora i semi? Sono ancora sul mercato? Domande per ora senza risposta. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Chiara Palmerini, Sbatti il batterio in ultima pagina, da Panorama del 20 luglio. Non c'è pace per i posteggiatori abusivi napoletani perseguitati dalla polizia municipale. Non resta quindi che ricorrere alle nuove tecnologie, come ad esempio Google Maps. Alcuni li considerano semplicemente dei delinquenti, altri invece li ritengono l'unico antidoto alla cronica mancanza di parcheggi. C'è anche chi, senza il classico «venga dottor, qui c'è posto», non riesce proprio a stare. E c'è pure chi li cerca proprio perché li ritiene l'assicurazione migliore per la propria auto, soprattutto se nuova di zecca. I parcheggiatori abusivi napoletani sono sopravvissuti a mille difficoltà. L'apertura del mastodontico e conveniente parcheggio pubblico di Via Brin, i ticket per la sosta dove è obbligatorio indicare il numero di targa, visto che il biglietto precedente lo vendeva all'automobilista proprio il parcheggiatore abusivo, e i controlli asfissianti della polizia municipale, guidata dal generale Luigi Sementa, che in meno di 3 anni ha denunciato più di 18.000 persone. Ma loro resistono e continuano a presidiare tratti di strada spesso lasciati in eredità da un padre o da un nonno. E non è uno scherzo. Basta chiedere a qualcuno di questi coordinatori della sosta, come preferirebbero essere chiamati. Fino a poco tempo fa si potevano contattare sul cellulare per farsi riservare un posto nei pressi, ad esempio, di uno dei tanti ristoranti del lungomare. Oggi invece basta andare su internet. Su Google Maps, infatti, è in costante aggiornamento una cartina della città dove sono individuati oltre 150 punti dove è possibile parcheggiare. Abusivamente, si intende. Ogni posto è corredato da una scheda compilata con rara precisione, manco fosse la guida Michelin. Prendiamo ad esempio Via Marina, zona università. Il compilatore avverte che in quella zona ci sono circa 300 posti a disposizione controllati da 5 parcheggiatori abusivi. Per parcheggiare lì occorre pagare almeno 1 euro. E l'insistenza, voce che media la gentilezza nel chiedere il pizzo e l'ampio ventaglio di reazioni in caso di rifiuto, dei parcheggiatori abusivi, è ritenuta media. Proseguendo verso il lungomare, la scelta diventa ancora più varia. Oltre 1000 posti a disposizione, 10 parcheggiatori abusivi, una tariffa più salata, 2 euro. Ma vuoi mettere il panorama di Castel dell'Ovo? E che dire di Piazzetta Scacchi nel cuore della città? Lì per parcheggiare occorre fare un abbonamento, mensile o settimanale, valevole 24 ore anche e soprattutto per i residenti. l'ideatore delle schede, dal canto suo, parla di un'iniziativa goliardica, con l'intento però anche di dare utili informazioni alla polizia municipale. Suggerimenti? Non ne abbiamo bisogno. Conosciamo bene il fenomeno e ormai da anni lo combattiamo con tutti i mezzi a nostra disposizione, spiega il comandante dei vigili urbani Luigi Sementa. Il problema è che noi possiamo arrestare un parcheggiatore solo quando c'è una denuncia da parte di chi paga il pizzo o quando c'è un'aggressione, altrimenti possiamo solo multarlo. Quando i vigili urbani fecero irruzione nella già citata piazzetta Scacchi, sequestrando soldi a due parcheggiatori, il giudice non convalidò quel sequestro, spiegando che i proprietari delle vetture avevano volontariamente consegnato le chiavi, pagando per il servizio. Lo dicevano gli stessi abusivi quando nel 2009 si riunirono davanti al Duomo chiedendo di non essere più perseguitati, perché alla fine loro fornivano un servizio alla città. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Antonio Salvati «Il parcheggio abusivo si trova su Google Maps» dalla stampa del 19 luglio.